sono Natali. Chi si manigi la potenza, ma non ce ne vuole, no. Per fuori si usa la potenza, ma quando uno ha difficoltà a sentirti, magari, allora sì che si può usare, ma se no non ce n'è bisogno. Ma ne vale la pena, pure la corrente costa, è cara. Se ne so qualcosa io, mi arrivi da roba di bolletta, ragazzi. Cosa ti è arrivato, Natale? A me mi è arrivato 160 euro, pensa a due. Non lo so, io pagavo sempre una cazzata, adesso si ha nattato la Grecia, Dovrebbe fare. Io prima da cazzo pagavo 60, massimo 80 euro, ma massimo solo più di 30 non mi arrivi. Se non sono più di 100 non arriva. Ho fatto questo coso di aioenergia, un po' qualcosa di meno mi arriva. E a me lo mattezzi un bel, ma arrivi più di 30. Non lo so io. Pagavo sempre poco, adesso invece sto pagando un bel. Poi da quando mi hanno chiamato i consultatori che si offende i rilonfi. Da quando hanno messo questi contatori sì, sono digitali. È normale, da là controllano tutto loro. Vabbè, ma ci usi assai. È un bel caro, comunque un bel caro veramente, aumentato un bel cazzo alla giura 160 euro, ma buffo niente, sì. A uno cazzo che se le arrivi da 250, 300, ma siamo male, cazzo, cosa vai cazzo, un'azienda, ma con un'azienda l'arrivi così. Infatti, non lo so io. Adesso ho fatto un'ecografia l'altro giorno, lo sai quanto mi è costata? Perché sono dovuto andare a pagamento. A chi si chiede al guffo, non invasivo mai di Cesare. Un'ecografia, 150 euro mi è costata. E da poi non mi riposo neanche caricare, la cosa riguriani con la gassa. Mi ragazza, non arrivo di navi da giù in contanti, oh, Manuè. Non me li posso scaricare perché non hanno, gli ho dato la carta, capito? Cazzo, ma è culata. Cazzo, uno se non ha cazzo di vedere mai, no? Per carità, che schifo. Più sta mandando, più sta diventando questo, uno schifo qua, cazzo. Che va? Dovrò fare una cistoscopia dall'urologo, dovrò fare per questi cazzo di... Qua. Allora, quindi cosa mi diciamo? Devo buttare un referto a chi non è riuscito a leggere su WhatsApp, gliel'ho mandato e dice a portargli il referto. E vabbè, lo buttiamo domani, cosa vuoi che ti dica? A chi sabato la giornata, oggi è domenica, a lunedì, luna sera a vetta, e vi posso buttare la mia moglie. La poi se mi devo mandare che impegnativa me la manda via email, io gliela stampo e vediamo un po'. Io, per carità, non si può neanche camarare, cazzo. Vai tu, fai tu. Cazzo, tu pensi, il mio dirimpettaio che è medico, si è fatto l'assicurazione, perché dice siamo per andare a vivere come in America, se no vai di là, muri, a chi non ti curano. Sì, è così, sai. Io te l'appoggio. Non ti fanno nulla. Ma ti stiamo andando, è più critica è la situazione. Ma c'era uno sotto che ha detto te l'appoggio, chi è? Avanti. Io, buongiorno, io ve l'appoggio a tutti e due. Io te la spingo perché sono amico di Gringo. Ah, sono contento, grazie, non c'è problema. Sono solo di tutti e due, beh, non so neanche chi c'è nel canale, la verità. Comunque, sto usando il 2009. Come sta andando? Bene? Già sta andando bene. Ui, c'era Marcolino, io, Manuele, Gianni se n'è andato e Antonio c'è, ci dovrebbe essere. Adesso non ha risposto dove sta facendo qualcosa. Ah, c'è stato, boh, magari sì. Comunque saluto a tutti, ben ascoltati, eh. Arre, Wuster. Eh beh, ma tu sei sempre basso, il segnale. Ma quando mai non ti puoi mettere un'antenna, come si deve, boh? Fate cazzo una Caritas, fate una Caritas, se cazzo me la comprate questa antenna. Cazzo, ma quando mai non ti puoi comprare un'antenna? Con stipendio che ti stanno dando, una bella antenna da piazzare. Molti sentono tutti, noi molti no. Cazzo. A me mi serve una bella figura, che antenna non è cazzo. Se il segnale neanche tre, figurati, sono col 2009, quello di Giovanna, ti ascolto un bel come basso la verità, tu non lo so, avanti Natali, vabbè Natali tu ce l'hai vicino, quindi devi già l'ascolti bene. Sì, io l'ascolto bene, tu che sei sordo. Senza bip sei rimasto, a motopompa. Questo è Saletta Ecomaster con lo GPP del Baracchino, del famoso 3009 di Giovanna, con lo GPP dell'Ecomaster. All'anima, non sono riuscito a contare i toni, se sono 6 o 7, però più di 5 sono, mi pare. Oh, scusate, io ero entrato, ero sparito, dai che sto facendo roba in cucina, quindi saluto tutti, Gianni è andato via, Manuele, Apparino, Pompone, vabbè, tutti sul canale, ritenetevi e sono poi salutati, ok? Vai, chi c'era, Natalino? Ciao Marco, ciao, buon proseguo, anch'io saluto a tutti adesso e me ne faccio in quei retti, salutoni a tutti, da grazie per il QSO, io me ne faccio in quei retti, alle prossime. Cosa cambia tal senso a tutti, dai, mi chiedo anche io che mi preparo e ce la riascoltiamo. Ciao Marco, Antonello, Natalino, dai, buona continuazione. Ciao a tutti, ciao. Ciao Antone, riprendi. Vabbè, rimani solo lì. Io sto chiuso, devo chiudere, devo far roba, dai. Ci sentiremo. Sì, vabbè, non c'è problema. Ci mancherebbe. Come sto facendo di radio di segnale? Buono. Sto fischiando. Vabbè, allora ti spiego. Segnale, non ho Smith. Radio sto usando un altoparlantino che è un po' acutino, un po' strano, però nel complesso, diciamo, rispetto a altre volte sta uscendo discretamente bene. Ok, solo uno di amplificazione, guarda adesso ho aumentato un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. E così così, diciamo sembri molto fine di modulazione, come che avessi messo i toni, e ti faccio un paragone, come che avessi messo i toni dell'MB più 5 a tutti acuti. No, ho capito, vabbè, questo è come se tu così classico, fa quel difetto, non è che sia nient'altro. Comunque, l'importante è che mi ascolti te. Tutto quello. 2, 3, 2, 3, 2, 3. Bravo, me l'ho sistemato e poi se funziona bene sembra a posto. Però ho sentito anche scariche, tipo scariche di cavo spiralato, e poi sembrava che ogni tanto ti abbassassi un po', non lo so, l'impressione mia. Vabbè, quello lo fa lo fluido, già lo sai anche tu. Se attacco l'altro microfono saletta è peggio, quindi non cambia niente. Quando ci sono gli slider così, purtroppo c'è quel problema. Ti volevo anche dire, è da poco visto su internet questo Ecomaster, però non marcato Sadelta, credo che sia uguale d'aspetto, ma ha un altro nome. è come che avessero riciclato il progetto originale, ma le vogliono 200 euro, nuovo e non roba usata. Ma 200 euro, aspetta che lo cerco e ti dico la marca. Ehi, vabbè, già sono qua io, non c'è problema. E questo è Salerta, marcato col... Ecco, Master Plus Classic, si chiama. Ciao, ehi, Anto, buonasera, che a te, ben sentito. Buonasera, e come fa a me quella storia? Bene, adesso magari la cambio integrato audio e dove funzionare, perché autocotto non ce n'è, quindi adesso magari prendo l'integrato audio, il condensatore l'ho già cambiato, quindi io lo messo nuovo, ti metto l'integrato audio ed è a posto, così te lo puoi girare. Adesso magari quando rientro salgo come si chiama e poi ti faccio sapere al telefono. Perché non lo voglio buttare, un peccato. E appunto per quello, ma dato che non lo vuoi buttare, potresti anche modificartelo, dato che se vuoi, te l'ho anche detto, solo che tu non vuoi modificarlo, quindi non lo so, io dico quello che dice il padrone, anzi metto il cavallo dove dice il padrone, legato lì e basta. Poi un domani deciderai tu se vuoi farlo modificare di audio, di potenza per avere 15 watt, non costano niente, costano una cazzata. Fallo, sono 2 minuti. Infatti così originale te l'ho fatto, ne ho messo la ricetta originale perché non riuscivo a trovarla e meno male sono scelto a trovarla io, per sbaglio. Quindi gliel'ho messa, c'è fatta, adesso domani vediamo di mettergli integrato audio e così almeno sei tranquillo, tu lo porti via e originale com'era, della fabbrica. L'importante è che non attacchi il lineare come hai fatto la tavola, se no ti bruci tutto. Non fare... devi stare molto attento a dove stare con il lineare, perché purtroppo il vento di frequenza con quell'antenna che c'hai è molto molto probabile. Se superi i 300 watt ti fa dentro via la frequenza immediato e ti ritorna tutto dentro e bruci la parete. Il discorso è quello, spero che tu lo sappia, perché ne ho avuto esperienza io con Mario Manser, abbiamo fatto la prova un giorno e ho sciolto la BA27L, quella che c'è tu in pratica, in 15 secondi con 700 watt neanche. Mi si è sciolto il cavo di fuoco, la valle è volato subito, se non aveva bruciato tutto. Ma 700 watt in AM? Sì, 700 watt in AM infatti, avevo modificato il lineare di Mario, te lo ricordi? Lo pilotava con Kemo addirittura, gli metteva 7-8 watt di pilotaggio e uscivano fuori 800, quindi figurati, gli avevo messo le risette da 10 ohm in pratica, 7-8 watt di quelle BV2001, io ce l'ho uguale di qua buttato, BV2001, deciso ce l'ho buttato, solo che io monto il 500, il 9507 mi ha detto, il 550p come lineare all'interno, quindi adesso appena facciamo un po' di soldi da parte mi metto il 750, glielo metto all'interno e mi dà 700-800 watt di cosa, perché è la stessa identica alimentazione, precisa. Allora Antonè, sì, ti spiego, quell'antenna è data per allora sia c'è Sirio e Midland, no? E chi dice 500 watt picco picco, ma proprio in banda laterale picco picco, chi dice 450, insomma sostanzialmente tu continui in AM, ne puoi dare un terzo e vai sul sicuro, un terzo proprio fisso, tipo 150 watt, anche 170, però già se ne dai, che ne so, 300 continui in AM, secondo me comincia a scaldare già. Le prime che partono saranno quei punti di saldatura, amiche, dove c'è la lamella, quella è sottile, scalda subito e comincia a far danno. Cosa ti volevo dire? Allora, l'ho trovato, allora, Galaxy Echo Master, è marcato Galaxy, Galaxy quello dei Saturn, no, c'è il logo, Galaxy Echo Master, nuovo, mamma mia, quanto è bello, Antonè, quanto è bello, nuovo di trinca. Ti spiego cosa c'ha, allora c'ha il PTT rosso, poi modulazione, ecco, c'ha lo strumentino a lancetta per la modulazione, c'ha la spia di trasmissione batteria, e costa, pensa, da nuovo 196,99 euro, quindi 197 euro, più la spedizione ovviamente. Figurati, faccio prima a pagarmi la povera la luce. Però a me piaceva come microfono, questo è il nuovo, c'è di trinca, nuovo, 2 anni di garanzia, mamma mia quanto è bello, non me la far guardare, vabbè, tanto non, poi non ne uso, io da tavolo sapete che non ne uso, però veramente merita. Ecco, infatti a suo tempo tu non avresti dovuto prestarne nulla, già lo sai, no? Siamo capiti. Infatti, la cazzata, non mica l'ho prestata, no. E tu dice, me lo presti, dato che tu l'hai agganciato al 70, eccetera, eccetera, siccome il c'ho 70 anch'io, funziona bene, eccetera, eccetera. Ho messo microfono e tutto, abbiamo due cose, si è venduto microfono, apparecchio, tutta la roba, hai capito? Prima ha fatto sacco di compra, poi adesso si è venduto tutto, poi non so le cose che ha fatto lui, questo non lo posso dire, ma comunque sia, è stato scorretto da parte di tutti, non solo per me. Già adesso mi leggo il messaggio. Antonè, ci sei sceso al fumo, la modulazione è scomparsa, si sentiva questo specie di fruscio, sembrava che mi stessi facendo sentire i peli come ai tempi di Falcone. Esagerato, e adesso sto uscendo, sì. Eia, però non è perfetto quel mic, ogni tanto senti questo, ma lì ti era proprio sparita la modulazione, sentivi solo questo. Devi tenere conto che pratica parecchio, cioè il microfono è da un bel che è fermo, hai capito, il discorso è quello lì, però adesso sto uscendo, grazie a Dio, ora, quindi figurati tu, usando il nome di Giovanna, quello nero, quindi i PT ci sono, sembra che stia uscendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Sì, vedo Antonio, ma è piazzato tutto voi o solo la parte audio? Ah, ecco, anche l'impalcatura e le luci eccetera, ho capito, ehi. E dov'è questo? Dov'era? Fuori Sassari. Oh, sì. K. Ehi. Poi bellino il pezzettino, bello, lento, tranquillo, magari solo l'introduzione. Che tipo di musica era poi lì? Cosa hanno fatto? L'azienda. L'azienda, ho capito bene. Eia. Quindi Antonè, vabbè, il microfono te l'ho detto, credo disponibile anche me, credo che non esistesse più, invece l'hanno rimarcato Galaxy, però identico, bello, è un bel pezzo da collezione quello, va bene. Dai signori, io devo continuare a fare roba, se no non concludo niente, dai. Io sono in maglietta, quasi mi sta venendo un freddo, prima avevo caldo, poi per radiare il calore mi sono messo in maglietta, adesso sto, mi prende subito le corde vocali, mi becca subito la gola, capito? Lo vedi? Ok, ciao Antonello, Antonio, QRT esecutivo da parte mia, ci sentiamo quando capita, ciao a tutti, ciao! Allora, non è passato nessuno, ho capito il finale di Antonio. Antonio, ripeti. Ho detto ciao Marco, ci sentiamo, ci vediamo. Buon QRT, buon tutto detto. Poi al limite se ti puoi far vedere, tanto domani a te puoi scendere un attimo da Fusaro, comprare un integrato e poi risalire qua. Se vuoi venire alla cui ti bevi una cosa, o se no, amico, se ti viene meglio, ci beviamo una cosa di lì e poi torni, rientri a casa come dentro anch'io. Guarda, se me la sbrigo con la dottoressa di mamma che deve vedere il referto di quella roba che abbiamo fatto, se me la sbrigo forse passo, dai. Nel caso ti avvertirei, ovviamente. Ok, ciao a tutti, ciao. Vai Antonio. Ciao Marco. Ciao Antonio, io devo chiudere. Ci sentiamo più tardi. Ok, va, ciao Marco, ciao Antonio, ci sentiamo, stammi bene tutti e due, buonanotte e buon proseguimento. Buona cena e buon tutto a tutti e due. D'accordo, ci sentiamo alla prossima, stammi bene. Ciao. Magari più tardi, sì. Adesso vediamo un po', dipende da Simona, hai capito? Se non sta bene, vabbè, se sta bene non c'è problema, io sono qua in cameretta mia, c'è il letto, c'è un letto, mi sdraio, mi guardo la televisione, c'è la macchina acceso, dopodiché da lì parto direttamente in camera da letto e mi addormento perché c'è il cane che mi aspetta, hai capito? Si mette a fianco a me, aspetta a me, pure la mattina appena mi alzo si mette a un fianco, comincia a leccarmi l'orecchio, a dirmi guarda che sono 9:30, mi devi alzare, hai capito? Bello bene. Leccarti l'orecchio, non è mai che sei scelto un dito. Cosa succede? Mi è caduto l'orecchio a me, il cane, non lo so, per svegliarmi, hai capito? A volte mi toglie, prima c'era il vizio di togliermi le coperte, la verità, faceva e si metteva a abbaiare, mi toglieva le coperte e che cazzo mi ho tirato una sussa. Adesso invece per svegliarmi, hai capito, se non mi sveglio alle 8:30, lui pensa che io sia morto, quindi in pratica mi lega l'orecchio, dice se questo è morto, in pratica non si solleva. Ok, a domani, ciao, ci stiamo, ciao a tutti, chiudo anch'io, vado a cena, ci stiamo domani. Com'è che stavo facendo il cane? Ma non è che ti stava trombando mentre eri addormentato, no? No, quello non fa. Si comincia a fare il bello di risponde e faccio allora si mette a bagliare il compito, già sei vivo, mi dice, hai capito? Però intanto mi toglie le coperte, hai capito? Dall'avanti toglie le coperte e mi fa alzare per forza di cose, e quindi mi va alzare eccetera eccetera. Lui pensa che quando vanno in bagno si mette, si siede davanti, davanti a me quando sto facendo il cocco, hai capito? Poi dice speriamo che usciamo, si guarda il guinzaglio, lui, hai capito? Viene, si guarda il guinzaglio e vuole che lo porto. Stamattina infatti l'ho portato giù e c'era il cane di Giovanna, quello bianco e l'altro nero, quindi figurati tu. Naturalmente scherzo, già lo sai. Ok Antonio, di nuovo ciao ciao ciao, sentiamo. Lo so che scherzo, non ti preoccupare, ci mancherebbe. Ok, ciao ciao, buonanotte, alla domani.